che non vuol, non, mangiare bene non vuol dire mangiare male. Quindi aglio senza, senza l'anima praticamente. Dobbiamo farmi mancare il nutraceutico. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Se rinasco, rinasco cipolla, perché mi, mi sembra che sia perfetta. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? E denari, speciale Expo 2015 di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Lascia tutto per favore, prendi un treno in poche ore, arrivare qui potrai. Troverai tanto sole, tanta pizza e tanto amore. Sole, pizza e amore, caro Bob. Per il momento è coperto dalle nuvole, forse anche inizia a piovigginare in questo primo maggio, ma c'è la passione tutta italiana, c'è l'accoglienza di Milano per questa Expo che si apre oggi, dedicata ai temi dell'alimentazione, nutrire il pianeta, energia per la vita. Il tema lo stiamo ripetendo tante volte in questa mattinata di Radio 24 e tante volte lo sentiremo ripetere in questi mesi. Nella prossima ora però vogliamo provare a leggerlo con un approccio all'acquare denari che vada al concreto delle cose, che ci permetta di capire come queste parole si possono adattare alla vita di tutti i giorni. La nostra alimentazione, lo sappiamo bene, viaggia di pari passo con la nostra salute, ma anche con le nostre scelte, i nostri acquisti, i nostri consumi, le nostre abitudini, quelle che mettiamo in pratica nelle nostre case e portiamo sulle nostre tavole. In questi giorni avrete sentito parlare della Carta di Milano, è un documento che in occasione di Expo mette nero su bianco degli impegni precisi in relazione al diritto del cibo, che è un diritto umano fondamentale. Potete anche andarla a leggere e a firmare su carta.milano.it. E anche noi con voi stamattina fino alle 12 vogliamo scrivere la Carta di Cuore Denari, un documento con cui noi insieme a voi vogliamo nel nostro piccolo affrontare questi temi così importanti. 800 24 00 24 per condividere con noi il modo in cui nelle vostre case mettete in pratica la sostenibilità, l'attenzione alle scelte alimentari, a vostro parere più giuste, il modo in cui combattete ad esempio lo spreco. Può essere anche una piccola cosa che però per noi è molto importante e che vogliamo inserire nella nostra carta, a cui potete contribuire anche con un messaggio al 349-238-6666 o interagendo con noi tramite i commenti social sulla nostra pagina del sito www.radio24.it. Naturalmente potete anche commentare quello che ci daranno i nostri ospiti, saranno molte le voci che sentiremo e ora vado subito a presentarvele. Oggi è in linea con noi Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, ma qua in qualità di ricercatore all'Università di Milano di Igiene e Sanità Pubblica. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, ricercatore in igiene e salute pubblica, insomma ti occupi in pratica di come la gente può stare bene nel lungo periodo e anche non solamente nel breve. In questo l'alimentazione, intesa come capacità di nutrirsi bene, ha un ruolo direi determinante, fondamentale, tanto che la nutrizione è al centro di tanti progetti di prevenzione e di programmi di salute. Sì, è così, potremmo proprio citare il celebre aforismo di Feuerbach, noi siamo quello che mangiamo e in questo mondo globale decidere quello che vogliamo mettere nel piatto e di conseguenza nel nostro corpo è davvero un processo che dipende dalla nostra consapevolezza, dalla nostra attenzione alla salute individuale, collettiva e anche alla salute del pianeta, quindi proprio perché il mondo è globale, proprio perché ogni giorno siamo nella condizione di poter scegliere e di dover scegliere quello che fa bene a noi e quello che fa bene agli altri, essere consapevoli, essere educati dal punto di vista alimentare, nutrizionale, ambientale è una priorità in questo momento per la sanità pubblica e questo ha spinto moltissimi progetti di prevenzione. Vogliamo citarne alcuni? Ma per esempio noi siamo monitorati con il programma Occhio alla Salute, certo, che è quello che proprio dà la possibilità di capire che cosa sta succedendo nei nostri comportamenti alimentari e nutrizionali. In tutto il mondo è stata diffusa la campagna Five a Day, cioè 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, che è diventato uno slogan che ha proprio condizionato, direi in modo molto positivo, l'alimentazione di tutti noi. Sappiamo che esiste la piramide alimentare, che è diventato un modello nutrizionale che di nuovo a livello globale insegna a tutte le persone come scegliere e selezionare gli alimenti che mettono nella propria dieta individuale. Quindi nelle mense, per esempio, dei bambini, quello diventa un modello che ispira il modello poi di nutrizione collettiva, e a scuola, tra l'altro, tantissimi insegnanti fanno moltissime attività e strategie educative per aiutare i nostri figli a mangiare meglio. Anche in occasione di Expo, naturalmente. Sì, Expo è diventato, credo, proprio un grande propulsore poi di pensiero, di strategie, di attività che secondo me dovrebbero avvenire prima di tutto dentro al nostro nucleo familiare. Expo dovrebbe essere proprio un'occasione per poter cambiare qualcosa dello stile che ogni famiglia decide di perseguire nell'ambito dell'alimentazione. A me è piaciuto molto ieri nello spettacolo di apertura di Expo che il dottor Sala dicesse proprio: Expo è un'occasione soprattutto per le famiglie che hanno figli, bambini, preadolescenti e adolescenti, per visitare una mostra che è un'occasione di cambiamento e che può proprio impattare non solo il mondo di oggi ma il mondo di domani. Voglio salutare anche il prossimo ospite con noi, l'avvocato Dario Dongo, esperto in diritto alimentare, promotore del progetto Great Italian Food Trade. Buongiorno avvocato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a voi tutti. Avvocato Dongo, lei usa un termine che mi colpisce molto, mi piace, perché mi piace: consumatori. Come possiamo esserlo nell'ambito dell'alimentazione? Come possiamo farla anche noi l'Expo, perseguendo i suoi principi? Ci dia qualche indicazione pratica, un po' alla Cuore Denari, cioè dalla teoria passiamo un po' poi alla pratica. Beh, dalla teoria alla pratica possiamo iniziare a provare a sforzarci a scegliere i prodotti che acquistiamo guardando al loro valore intrinseco, ad esempio scegliere le filiere etiche, scegliere il Made in Italy, in maniera anche da riconoscere il valore del lavoro dei nostri distretti produttivi. Significa privilegiare i prodotti certificati come fair trade quando la filiera di approvvigionamento sia in paesi lontani, paesi che sono ancora vessati da problemi di sovranità alimentare, rapina delle terre, sfruttamento, schiavitù. E più in generale significa cercare di orientare le proprie scelte verso quei prodotti e quelle filiere a cui si associ una idea, un ideale che abbia anche un riflesso concreto in termini di bene comune, di benefici collettivi. Avvocato Dongo, in Italia noi abbiamo anche delle grandi eccellenze alimentari e con il progetto Great Italian Food Trade si vuole promuovere proprio il Made in Italy di qualità certificata, perché la qualità nutre anche la salute degli individui, ma nutre anche quella dell'ambiente, è corretto? Proprio così. L'Italia è un paese davvero all'avanguardia, non soltanto per una tradizione millenaria nella produzione degli alimenti e anche nella sua degustazione pure conviviale, sempre al centro delle attenzioni di molti, ma è all'avanguardia anche sul fronte del rispetto della natura. Pensiamo che la produzione biologica in Italia è leader in Europa. Pensiamo che l'Italia è stato il primo paese nel mondo ad aver adottato per legge l'obbligo di seguire pratiche di lotta integrata in agricoltura, vale a dire di rigoroso controllo e riduzione al minimo possibile dei fitofarmaci. E l'Italia è anche il paese dove il formaggio può venire prodotto soltanto con il latte, la pasta soltanto a partire dal grano duro. Insomma, abbiamo un certo numero di eccellenze che meritano di venire promosse. Questa è la missione poi di Great Italian Food Trade, che è l'unico sito in 8 lingue oggi dedicato alla cultura alimentare italiana e alla sostenibilità. Ma a proposito d'Italia, noi abbiamo naturalmente un filo diretto con Expo, come avrete avuto modo di sentire anche negli speciali che ci hanno anticipato, con Alessio Maurizio e Anna Migliorati. Adesso in linea con noi c'è Laura Bettini, direttamente dal Padiglione Italia. Ciao Laura! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti di nuovo. Laura, ho sentito, allora i vetri sono un po', no, un po' fané, ma la pioggia molto a desiderare. Però, sì. Però la pioggerellina aiuta, no? Ecco. Sì, perché confonde. Senti Laura, raccontaci un po' che atmosfera si respira. Dacci, è il caso di dirlo, un po' un assaggino in diretta dall'Expo. Dunque, io direi che l'atmosfera, che all'inizio era un po' fredda, adesso si sta scaldando, nonostante il peggioramento delle condizioni meteo. Adesso stanno affluendo tutte le persone verso questa open, quest'area all'aperto, no? Il teatro all'aperto, dove ci sarà l'inaugurazione ufficiale con il Presidente del Consiglio Renzi. Sì. Ma tanti sono ancora in giro. Il padiglione del Kazakistan, per esempio, sta facendo festa da più di un'ora, perché ospiterà nel 2017 un'altra esposizione, quindi stanno facendo in grande, insomma, anche la loro futura presentazione. Quanto al padiglione Italia, c'è sempre gente, tutti siamo curiosi italiani di vedere alla fine come è venuto fuori, no, questo lavoro di cui tanto abbiamo letto sui giornali. Quindi ci sono non soltanto giornalisti, non soltanto la responsabile del padiglione Italia, che è Diana Bracco, ma anche tanti visitatori, ecco, che stanno semplicemente dando un'occhiata. È l'apertura, sì, l'inaugurazione tale pomeriggio, quindi ora tutti giù. Laura, ma qual è la cosa che salta agli occhi entrando al padiglione Italia, la cosa più bella, quella che ti ha colpito di più? Guarda, a dire il vero, a me la cosa che ha colpito di più è che questa copertura, questa che dovrebbe essere una specie di foresta pietrificata, sì, io me l'ero immaginata, non so, ma quasi legno, invece è tutt'altro, non so che materiale sia, ma direi plastico, e quindi in realtà assume tutto un aspetto da grande giocattolone, quindi è bello, ma non è per niente quello che io mi immaginavo venisse fuori vedendo i rendering, no, sui siti, sui giornali e così via. E questo è a me la cosa che ha colpito di più, ecco, perché devo dire mi immaginavo una cosa diversa e invece ho trovato questa specie di enorme, sì, giocattolone. Senti, sì, Laura, sì. Vorrei che tu mi aiutassi a dare informazioni a molti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 riguardo agli accessi per i disabili. Hai controllato? Allora, io non sono entrata dalla metropolitana, lì sì, è passato Gigi Donelli, quindi lì potrà dirvi lui se ha notato qualcosa. La parte che ho fatto io è quella dei posteggi, navetta e poi ingresso, in questo caso mio, dall'ala del teatro all'aperto. Lì direi nessun ostacolo per i disabili. In realtà io vedo sul sito che ci sono molte informazioni e mi auguro che, poi andremo a verificarle, insomma, con il passare dei giorni, mi auguro che risponda alla verità. Ci sono indicati esattamente quali sono i migliori posteggi per i disabili se intendono venire in auto, oppure se vengono utilizzati altri mezzi, oppure se come fare per gli accompagnatori, insomma è tutto molto dettagliato. Ora bisogna vedere se poi messo nella pratica funziona tutto il meccanismo. La parte di visita è sicuramente accessibile ai disabili, i servizi sono accessibilissimi, ho controllato, visto che mi avevate detto di dare uno sguardo a questo aspetto qualche minuto fa, e direi che da quel punto di vista quando si è dentro siamo a posto. Poi i singoli padiglioni speriamo siano attrezzati, questo non ho ancora modo di verificarlo, molti sono chiusi e però inaugureranno nelle prossime ore, però ecco, se uno vuole girare per i viali, il bar, i ristoranti, è tutto tranquillamente a misura di chi ha una disabilità. E a proposito di bar e ristoranti, è arrivata fresca un SM di Carlina che ci chiede di chiederti espressamente, chiedete a Laura Bettini se si può assaggiare, mangiucchiare qualche cosa e se lo ha già fatto, quindi abbiamo anche i nostri ascoltatori, allora, che ci suggeriscono le domande, grazie a Carlina. Credo, non è una pubblicità, nel senso che chi viene qua lo vede, c'è scritto Salumeria Italiana Accademia Citterio, quindi capiamo bene cosa c'è dentro. Sì? Io vedo qua gente che assaggia bene, liberamente, questa è la zona del Padiglione Italia, dentro ho visto un bar e anche lì ho visto, più che un bar mi sembra un'esposizione di cose che riguardano il caffè dintorni, quindi qualcosa da assaggiare, ecco, c'è visitare. Anche molto da comprare, devo dire, e attenzione, portatevi l'acqua, perché io ne ho comprata una e ho pagato un prezzo da Colosseo. Grazie Laura. Sì. Grazie Laura, ci sentiamo nuovamente nel corso della trasmissione. Intanto Alberto Pellai è ancora in linea con noi, come l'avvocato Dario Dongo. Alberto, e noi continuiamo questa nostra chiacchierata, questa nostra riflessione sull'importanza di una sana alimentazione. C'è un dato interessante: in Italia il sistema di sorveglianza Occhio alla Salute, di cui tu hai citato prima le fonti, ha evidenziato che il tasso di prevalenza dell'obesità nei bambini di 8-9 anni è pari al 12,3%, che è quello del sovrappeso è del 23-24%. Insomma, c'è poi il grande problema dei bambini che non consumano frutta e verdura tutti i giorni, a proposito delle famose 5 porzioni. L'Expo sicuramente può anche essere un'occasione per aiutare, promuovere un cambiamento e invertire la tendenza. Ma Alberto, da che cosa si può cominciare? Quali sono gli errori che commettiamo con più facilità? Direi che un errore molto frequente è quello di saltare i pasti, in particolare la prima colazione, e va detto ai genitori all'ascolto che saltare la prima colazione rappresenta un fattore di rischio proprio per sovrappeso e obesità, e quindi tenere questo come un pasto di riferimento per la giornata è molto importante, e aiutare i bambini a farlo. Magari a volte i bambini sono molto assonnati, dicono non lo voglio fare, certo. E i genitori magari assecondano subito, magari poi compensando con una merenda molto grande a metà mattina, che poi inibisce l'appetito al momento del pranzo e sfasa tutto il ritmo alimentare della giornata. Sì. Credo che un secondo rischio molto grande per i nostri bambini sia quello che si chiama in gergo multisnacking, cioè mangiare tante cose, tanti spuntini tra i pasti principali, anche questo con un danno molto forte sulla salute, perché intanto continua a muovere l'indice glicemico e conseguentemente a far produrre insulina, con un rischio molto aumentato per sovrappeso e obesità. E poi di nuovo altera il meccanismo fisiologico dell'appetito e della sazietà, e conseguentemente è un'abitudine che va assolutamente trascurata, va assolutamente evitata. In generale direi che come genitori dovremmo usare le due parole chiave, cosa e come. Infatti cosa è quello... vorrei proprio leggerti un messaggio su Twitter di Mamma Yoga, che ci scrive: noi siamo come mangiamo, la consapevolezza non è solo cosa ma come, e anche le emozioni ci nutrono, quindi se siamo quello che mangiamo, meglio mangiare bene. Andiamo a Carla da Roma, vediamo se ci aiuta a scrivere la carta, una sorta di carta Milano di Cuore Denari, oppure se ha un'esperienza da raccontarci. Carla, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Senta, grazie. Io vi ascolto sempre quando sono in macchina la mattina, eccetera. E volevo dirle la mia esperienza. Io ho 70 anni e da 2 anni frequento i corsi che fa Slow Food presso Italy, sì, a Roma. Devo dire che ho imparato moltissimo a leggere le etichette, a consumare i prodotti della filiera corta, l'agricoltura biodinamica, biologica. Quindi diciamo che siamo in tanti e queste cose credo che stiano entrando nelle coscienze di molti. È vero, you know? È vero. Sì, passetto dopo passetto ci stiamo avvicinando e io sono convinta che l'Expo semini, no, dei concetti importanti, e che tocchi a ciascuno di noi nella sua quotidianità, in casa, in famiglia, fare, no, fiorire, coltivare i messaggi e la filosofia di Expo. È d'accordo, Carla? Agricoltori, certo, anche se poi quello che diceva il medico è vero, io ho una nipotina che mangia merendine, nonostante ogni tanto un ciambellone, però la frutta quasi niente, non so come entrare nella sua testa per questo, perché le pubblicità non aiutano. Carla, bisogna insistere. E i bambini, po' alla volta si convincono, perché i bambini sono curiosi, è vero che vogliono così emulare anche i compagni, ma sono curiosi e secondo me, vero Alberto? Stimolandoli con sapori, con nuovi... L'idea può proprio essere quella di far diventare frutta e verdura un grande laboratorio. Dal momento dell'acquisto, proprio magari facendo fare una caccia al tesoro di colori dentro al supermercato che devono entrare nel carrello, al momento della preparazione, cioè coinvolgendoli in un piccolo laboratorio di cucina che per i bambini è sempre sempre divertente e automaticamente motiva poi a consumare quello che è stato protagonista dei loro giochi e delle loro attività. Grazie a Carla, intanto vi invitiamo 800 24 00 24 se volete intervenire per raccontarci le vostre impressioni, per raccontarci come vi nutrite, quale peso date all'alimentazione, se avete cambiato il vostro stile alimentare, con quali risultati e soprattutto perché. In linea con noi l'avvocato Dongo, Alberto Pellai, arriveranno presto dei grandi amici di Cuore Denari, il dottor Speciani, il dottor Ongaro, con cui commenteremo naturalmente, sottolineeremo l'aspetto fondamentale nella prevenzione e nel mantenimento della salute che svolge l'alimentazione e la corretta nutrizione. Ma avvocato Dongo, torno da lei. Citavamo le percentuali di bambini sovrappeso e obesi, noi abbiamo i bambini più cicciottelli d'Europa. Anche questa è una contraddizione, noi sappiamo che ci sono persone che muoiono di fame e persone che si ammalano per il troppo cibo. Naturalmente non possiamo affrontare il tema della fame nel mondo in questa sede, in pochi minuti, ma certo ciascuno di noi può fare qualcosa partendo proprio dal cibo. Io credo che anche questo sia un messaggio importante di Expo da condividere anche con i nostri bambini e che ciascuno di noi può proprio seguire e mettere in pratica dalla scelta del consumo e dalla riduzione degli sprechi. È proprio così, bisogna, come tu giustamente ricordavi, tenere a mente che oggi sul pianeta, a fronte di circa 2 miliardi di esseri umani che soffrono di fame e denutrizione, ci sono 1,5 miliardi invece di persone che sono affette da obesità, sovrappeso e patologie correlate. E certo servirebbe una ridistribuzione dei beni e dei diritti, cosa che non è facile e purtroppo esula dalle nostre microscopiche capacità. Ed è per questo che può invece valere la pena nel nostro piccolo cercare di esercitare una funzione attiva di cittadini, di consumatori consapevoli, di consumatori, come ti dicevo appunto, portando avanti scelte che privilegiano le imprese e le filiere etiche da un lato e partecipando anche a quello che viene definito il grande movimento verde, quindi a quella sollecitazione, stimolo continuo dei mercati che parte, non può che partire dal basso attraverso petizioni e iniziative volte a ridurre le diseguaglianze, le ingiustizie che sono particolarmente frequenti nella filiera alimentare. Io ho forse accennato al caso del palma, l'olio di palma si associa, è forse la prima causa di rapine delle terre e deforestazioni che hanno luogo anche nell'Africa subsahariana, proprio quei paesi da cui poi partono i migranti che cercano purtroppo con grosse difficoltà a raggiungere il Mediterraneo. E allora possiamo a nostra volta provare a concentrarci un poco su questo esercizio personale di consumatori. Pensiamo anche al consumo di carne. Il consumo di carne non deve venire necessariamente interrotto, come pure la FAO stessa suggerisce per garantire la sostenibilità, il mantenimento delle risorse naturali. Vi è anche un movimento, tenendo presente che l'Italia è al secondo posto al mondo per numero di vegetariani in rapporto alla popolazione dopo l'India, ma è anche sorto, si è sviluppato negli ultimi anni il movimento dei reducetariani, vale a dire di consumatore che senza rinunciare alla tradizione, al piacere della carne e alle proteine ne fanno un uso più ridotto, più equilibrato. Considerato che un chilo di carne bovina richiede circa 150 ettolitri di acqua per venire prodotto, tutto sommato mangiarne un po' meno, scegliere altre specie, mangiare anche del pesce sostenibile, può essere anche questo un piccolo esercizio da tenere presente. Ringrazio Dario Dongo per essere stato con noi, Alberto Pellai, adesso noi facciamo una piccola pausa, voi continuate a seguirci, 800 24 00 24 se volete intervenire, ci sentiamo subito dopo, grazie. Ci siamo. Ci siamo. Expo apre i battenti. E Radio 24 c'è. Radio 24 c'è. Con una programmazione tutta dedicata all'evento più atteso dell'anno. Dal 30 aprile al 3 maggio vivremo insieme tutta l'emozione di Expo. Appuntamenti speciali, collegamenti, dirette, interviste e la redazione sempre presente sul campo. Expo sta arrivando. Noi siamo pronti. Noi siamo pronti. E tu? La passione si sente. e denari. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a The Drive. Ed eccoci di nuovo insieme, ci sono tante parole che si intrecciano con la parola cibo e con i suoi tanti significati. Cibo è nutrimento, accudimento, energia, è piacere, gratificazione, ma anche cultura, arte, l'elenco potrebbe continuare perché al cibo ci lega una relazione speciale. Quasi come quella che abbiamo con i prossimi ospiti che sono in linea con noi. Buongiorno al dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, che ci parla dall'Expo. Buongiorno. No. Buongiorno a tutti, spero che i rumori di fondo non siano eccessivi, però è emozionante essere qui all'interno della cerimonia. Al momento, dottor Speciani, sentiamo più le voci di sottofondo che la sua, ma nel corso ci riprendiamo rapidamente. Intanto salutiamo il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno, dottor Ongaro. Buongiorno a tutti, buongiorno. Vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, quando verrà a visitare l'Expo, dottor Ongaro? Allora, sono lì in realtà proprio il 16 maggio a fare una prima conferenza, poi ci tornerò anche in giugno, sono molto curioso. Noi oggi insieme al dottor Speciani, al dottor Ongaro, parliamo naturalmente dell'importanza dell'alimentazione, l'abbiamo fatto tante volte in diverse occasioni a cuore denari per sottolineare che l'alimentazione può produrre e procurarci salute, aiutare a mantenercela ma anche a farci tornare bene, a stare bene. I vostri consigli, dottor Ongaro e dottor Speciani, sono un po' musica per le nostre orecchie perché nutrono la prevenzione che, lo sappiamo, è il tema clou di Cuore dai Denari, ma al di là delle battute ormai sappiamo che l'alimentazione quotidiana gioca un ruolo essenziale nella promozione della salute, dalla prevenzione alla cura delle malattie. Il concetto, lo sappiamo bene, non è nuovo, perché a sottolineare questa relazione così stretta tra nutrizione e salute ci aveva già pensato Ippocrate, medico, autore del trattato Antica Medicina, che suggeriva addirittura che la pratica medica fosse nata proprio come specializzazione dell'arte di cucina. Insomma, siamo quello che mangiamo, perché il cibo può mantenerci sani e al tempo stesso evitare che ci ammaliamo, ma il cibo può diventare anche cura e quindi regalarci salute. Dottor Speciani, sembra quasi una frase fatta perché l'abbiamo sentita ripetere tante volte, ma a sostegno ci sono veramente un miriade di studi. Ma io direi che gli studi sono davvero tantissimi, perché siamo passati da una considerazione, direi quasi un po' di pancia, no? Che per cui era sufficiente mangiare abbastanza. In realtà si è scoperto che anche se l'alimentazione era sufficientemente ricca, in realtà questo portava a malnutrizione. E poi gli studi hanno consentito di capire. Dottor Speciani, dobbiamo riprendere il collegamento perché il rumore di sottofondo copre la sua voce, ma ci risentiamo, speriamo di poter riprendere il collegamento e intanto possiamo continuare il nostro discorso sull'importanza della nutrizione e dell'alimentazione nel ruolo di prevenzione ma anche di cura con il dottor Ongaro. Dottor Ongaro. Pronti, senza rumore di fondo, sono qua solo soletto. Forte e chiaro. Esatto. Ma no, diciamo è un po' il centro di tante puntate che abbiamo fatto assieme, Nicoletta, il discorso di cominciare finalmente a riscoprire il ruolo centrale che il cibo ha nel mantenimento della salute e puntare veramente a un'educazione alimentare a lungo termine che permetta alle persone di non vedere nel cibo da un lato la risorsa immediata per appagare, no, piacere, riprendersi dalla stanchezza, ma invece una fenomenale risorsa a lungo termine che richiede molta educazione. Richiede un nuovo tipo di rapporto col cibo e quindi l'occasione dell'Expo, con tutte le polemiche che si trascina dietro, è un'occasione invece importante proprio per aprire questo dialogo e cominciare a guardare a lungo termine come nutrire meglio questo pianeta che diventa sempre più numeroso, sempre più complesso, insomma. Dottor Speciani, io credo che la consapevolezza dell'importanza del cibo l'abbiamo maturata. Il problema è che non si riesce a passare dalla teoria alla pratica. Abbiamo alcune ascoltatrici che ci raccontano questa difficoltà, ad esempio Angela da Rimini. Buongiorno Angela. Buongiorno, sì, sono in linea, mi sentite? Sì, la sentiamo, perché ecco. Da Rimini non è disturbata come il dottor Speciani dall'Expo. Lei verrà sì. A vedere l'Expo, Angela? Ma spero di sì. Io insegno, quindi quando avrò finito con la scuola, spero durante l'estate. verrà a fare un saltino. Intanto, intanto Angela, lei ci chiamava? Sì, vi chiamavo perché ho sentito l'intervista precedente alla signora di 70 anni, la quale ha detto una frase per me chiave, che però non è stata abbastanza focalizzata, cioè sul fatto che i suoi nipoti mangiano le merendine. Sì. Ecco, allora io volevo dire una cosa, la promozione della salute si fa promuovendo la salute, non le merendine, mentre invece negli ultimi 35 anni io ho due figli, adesso sono grandi però insomma sono stati anche piccoli, e io sono sempre stata molto attenta a questo discorso del cibo, del biologico, organico, eccetera, ma con l'imperversare della pubblicità di una notissima fabbrica che insomma è quella che dà i maggiori proventi a livello insomma di... Quindi lei dice che la pubblicità che rende difficili delle scelte alimentari equilibrate, adeguate. Dottor Ongaro. Beh, insomma, non c'è dubbio che un po' di ragione la signora ce l'ha, nel senso che negli ultimi anni abbiamo prestato poca attenzione all'effetto che questo bombardamento pubblicitario poteva dare sulle scelte, in particolare dei più piccoli. Insomma, e credo che una maggiore attenzione nei confronti delle regole proprio che si devono rispettare nella comunicazione verso i bambini sia estremamente importante. Qualcosa si sta cominciando a fare, devo dire che anche qua gli Stati Uniti, che tante volte sono stati peggio di noi, però stanno anche recuperando più in fretta, perché voi sapete che stanno facendo dei grossi cambiamenti anche su come gestire proprio le regole della pubblicità nei confronti dei bambini, che cosa può essere venduto nelle scuole. Indubbiamente, se solleciti certi tipi di meccanismi nella mente di un bambino che è ancora psicologicamente più fragile di un adulto, rischi di far stabilizzare dei gusti e delle tendenze che poi questa persona si porterà dietro per sempre, insomma. Ci colleghiamo, l'abbiamo anticipato, stiamo seguendo l'Expo, lo faremo in tutta questa giornata. In linea con noi abbiamo Gigi Donelli. Ciao Gigi. Ciao Nicoletta, buongiorno. Localizzati e dacci un po' il polso della situazione, perché per tornare ad una metafora un po' come il cibo, ormai è quasi pronto da portare in tavola, eh? Beh, direi decisamente, parafrasando un vecchio programma al pranzo servito, ti ricordi evidentemente, certo. Ma insomma ci siamo in questo istante, vi parlo dall'Open Theater, che come dice la parola stessa è open e dunque fa un po' i conti con questa pioggia intermittente. Comunque sia, diciamo, la pre-cerimonia è iniziata, Claudia Gerini sul palco sta introducendo vari temi e tutto è pronto per la ufficializzazione, per l'apertura formale, anche se sappiamo che Expo 2015 di fatto è aperta dalle 10. Senti Gigi, che cosa ti aspetti? Altre notizie fresche guardandoti intorno? Portaci all'Expo. Allora, l'Expo apre grandissimo spazio espositivo, come sappiamo, insomma abbiamo già potuto vedere alcuni padiglioni davvero interessanti, mi ha colpito quello della Corea piuttosto che i padiglioni orientali, naturalmente il padiglione Italia, insomma un grande spazio di visita, in questo momento anche una grande piazza internazionale, perché naturalmente ci sono gli ambasciatori, gli ospiti, VIP, meno VIP, insomma una grande piazza globale, come si usa dire, che fa capo qui a Milano su questo grande tema così universale dell'alimentazione. C'è, arriva molta gente, è affollato, è caldo? Allora, sì, ovviamente come puoi immaginare siamo su uno spazio di 1.100.000 metri quadrati, la mia prospettiva, la mia vista è di circa 200 metri, si sta animando, ovviamente è proprio il momento in cui le persone cominciano, o meglio, cominciano a entrare in maniera massiccia. Segnalo, approfitto, l'ho fatto prima ma lo rifaccio molto volentieri, io come molti sono arrivato in metropolitana e direi che un po' dagli scambi che abbiamo avuto è di gran lunga il mezzo più pratico per accedere ad Expo. Grazie Gigi. A te Nicoletta. Ci sentiamo presto. Allora, la metropolitana è il mezzo migliore per arrivare ad Expo, ma noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo, insieme, a tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Cuore e denari. Maccheroni, maccheroni, questa è roba da galettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono. Vino rosso, io non bevo vino rosso. Mi sembri un verme, maccherone. questa roba da americani, vedi? Marmellata, yogurt, mostarda, questa roba è magna da americani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Mazze zuzzerina. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne magno. E noi torniamo in linea, parliamo di Expo, parliamo naturalmente del tema portante di nutrizione e insieme ai nostri esperti riflettevamo sul fatto che l'Expo ci cambierà e darà i suoi frutti nella misura in cui ciascuno di noi proverà a tradurre la filosofia di Expo in stile quotidiano. Allora, Cuore Denari, abbiamo pensato di accompagnarvi in questo cambiamento. Abbiamo pensato di prendere parte attivamente a Expo con una serie di puntate, tutte dedicate ai temi chiave della manifestazione. Partiremo mercoledì 6 maggio e il nostro sarà un vero e proprio reality in cui voi ascoltatori sarete protagonisti e verrete seguiti da un team di nutrizionisti e cuochi per la parte salute, mentre per la parte più economica vi terremo aggiornati con news, approfondimenti per sì spendere bene, ma sempre nel rispetto della filiera produttiva. Insomma, vogliamo fare nostro il tema di Expo, nutrire il pianeta, energia per la vita, declinando le linee guida della manifestazione in chiave Cuore Denari. Allora, come fare per partecipare se l'idea vi alluzza, vi stuzzica un po'? Sulla home page del sito di Radio 24 trovate un link per compilare un questionario, uno per ogni categoria che parteciperà al nostro reality. I profili sono 8: sedentario, stressato, over 50, convivente senza figli, sportivo, donne in gravidanza, vegetariano, coppia con figli piccoli. Insomma, sono 8 i profili, ma ciascuno di noi può riconoscersi in più di un profilo. Il dottor Ongaro inaugurerà questa nostra gruppo di questa nostra iniziativa. Dottor Ongaro, faccio una convocazione. Lei si occuperà insieme a Stefano Polato, che salutiamo perché è arrivato in linea. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a tutti. Il progetto e si occuperà dei sedentari. Dottor Ongaro, abbiamo 30 secondi per fare una convocazione. Sedentari di tutta Italia, svegliatevi, siete tantissimi, più di 20 milioni di persone completamente immobili in questo paese. E su cosa puntare? Bisogna puntare sull'aiutare queste persone a vincere questa inerzia, motivazione, un po' di trucchi anche nell'alimentazione, una strategia per ritrovare una forma che passa sicuramente attraverso il cibo, ma non può sfuggire dalla regola che bisogna anche muoversi per stare bene. Stefano, tu affiancherai il dottor Ongaro, sei pronto quindi ai fornelli, quale asso dalla manica tirerai fuori per convincere i sedentari a seguire le indicazioni del dottor Ongaro e quindi a coniugare gusto e salute, naturalmente mettendoci un po' di impegno per muovere qualche passo in più? Sì, Nicoletta, partiremo proprio dalla cucina, nel senso che daremo degli spunti interessanti e curiosi su determinati argomenti e con l'obiettivo di stimolare proprio i nostri partecipanti a cimentarsi in cucina. Quindi il primo movimento e la prima reazione sarà proprio in cucina con i fornelli. Stefano, a proposito di fornelli, vorrei che tu ci regalassi una ricetta stile molto Cuore Denari, però in linea con l'Expo. Sì, allora io questa mattina ho ascoltato tutti gli interventi, sono stati molto interessanti. Mi piace. Sai che io ho prodotto il cibo per Samantha Cristoforetti per l'Astronauta Italiana, insieme al dottor Ongaro abbiamo creato una sorta di alimentazione dedicata a Samantha e tramite questa ricerca, ho scoperto delle cose estremamente interessanti, ossia che qualsiasi o molti dei piatti che oggi definiamo tradizionali nascono, guarda caso, per necessità. Quindi come noi abbiamo fatto un bonus food, lo space food, il cibo per gli astronauti, per necessità, perché bisognava nutrire gli astronauti, anche in passato in realtà molti dei nostri piatti nascono per necessità. Vi lancio questa ricetta che magari troveremo anche sul sito. Sì, le sarde assolutamente in saor. La troveremo, sarde in saor per l'Expo, una ricetta alla Cuore Denari, sostenibile, gustosa, con l'approvazione anche del dottor Ongaro e ricetta di Stefano Polato, tutta una garanzia. Lo trovate naturalmente sulla pagina di Cuore Denari, ma io chi trovo qui in studio? Anna Migliorati, ciao Anna. Mi hai subito intercettato. Ti stiamo preparando, pronta? Io Alessio Maurizi, riprendiamo tra pochissimo. Allora tra poco, buona giornata, buona Expo, un saluto da Nicoletta Carbone che torna con Deborah Rosciani lunedì. Vi aspettiamo.